Ad alta voce, in collaborazione con l'Istituto Centrale per i Beni Sonori ed Audiovisivi. Alessandro Benvenuti legge Metello di Vasco Pratolini. Quel pomeriggio, alle 7, mentre lui giaceva con Ida tra le siepi di Terzollina, gli scioperanti si erano raccolti sotto la finestra della Camera del Lavoro, in silenzio e addossata ai muri sui due marciapiedi. Si era potuto sentire Palazzo Vecchio battere le ore. Suonato il rintocco, Aminta gridò: «Vien fuori, Bastiano! Non ti nascondere anche te come i padroni!» Era un uomo preso dalla disperazione. Se avesse avuto un fucile avrebbe sparato. Allo stesso modo sarebbe potuto cadere in ginocchio e chiedere perdono. Nessuno lo contrastò, come nessuno, nemmeno Aminta, ebbe l'animo di salire le due rampe di scale ed entrare nell'ufficio di Del Buono. La porta era spalancata e chiunque era in diritto di entrare e di esporre le sue ragioni. Del Buono si era affacciata alla finestra e glielo ricordava. «O volete richiamare le guardie e i soldati?» Poi era sceso e si era diretto verso i cavalleggeri, loro dietro. Riempivano la piazzetta, in maniche di camicia e panciotto, coi berretti e i cappelli di paglia buttati sulla nuca, le giacche sul braccio appese alle spalle, le barbe lunghe, i visi di fame. Aminta si trovava in prima fila. «Sicché, Bastiano, sono arrivati questi quattrini!» Del Buono mostrò un telegramma di Borghesio. Dopo le sottoscrizioni della Romagna, di Milano e di Torino, a loro fiorentini sarebbero toccate all'incirca 2.000 lire. «Tra 2 o 3 giorni siamo sicuri di spartirle!» «Domani si torna ai cantieri!» aveva gridato Lindo, e Aminta: «Ha ragione Tinai! Ci rimandate di giorno in giorno, e poi son palliativi! Bisogna costringerli con la forza, Badolati e compagni!» In quel momento, Metello era sul greto del Terzolle, al riparo della siepe, abbracciata a Lidina. Non di meno, dopo il racconto che gliene avevano fatto, poteva immaginarsi la scena e le parole. «Bisogna fargli paura! A costo di finire in galera, almeno ci sarà un perché!» Questo era ancora Aminta che parlava. «Io intendo tornare sui cantieri per riprendere il lavoro», replicò Olindo. «Non per fare delle chiassate. Vi abbiamo dato retta anche troppo, e credo di non essere il solo a pensarli in questo modo». Allora Aminta tentò di aggredirlo. Li avevano divisi. E malgrado la calma in cui era continuata la discussione, Aminta si era seduto su un sasso ai piedi di Del Buono e si teneva la testa tra le mani. Olindo aveva trovato non uno, ma 10, 20 sostenitori. Anche Butori, il tedesco, era venuto a schierarsi dalla parte di costoro. «Toglimi pure la patente di socialista, caro Del Buono, ma è una corda che non si può più tirare. I padroni hanno il coltello dalla parte del manico. Vogliamo continuare a dare delle stratte perché ci entri tutto in gola?» Del Buono aveva parlato come gli riusciva. Li aveva rianimati con le notizie ricevute da Pescetti, che si tratteneva a Roma apposta per seguire lo sviluppo della situazione. «Se», lo avevano interrotto, «contiamo su Giolitti, come se Giolitti l'avessero eletti i lavoratori! Te le dobbiamo insegnare noi queste cose?» «Per conto mio ho deciso», disse il tedesco, si era tolto di bocca il fuscello d'erba d'avena e si dondolava, alto e smagrito sui calcagni. La sua voce d'orco, profonda, naturalmente maliziosa, e il suo tono tranquillo, persuaso, smussavano quanto poteva esserci di odioso nelle sue parole. «A Monterivecchi dissi finché si può. Ora, Aminta, stai buono, non t'arrabbiare. Io personalmente chiedo spiga, e non soltanto perché ho la moglie lì per partorire, ma perché in coscienza mi sembra che si sia andati al di là del sopportabile e del consentito. Bravo tedesco!» gli gridarono, ma anche: «Questo vuol dire arrendersi dopo tutto quello che si è sopportato!» «È un fare i crumiri, è cosa vi pare!» rispose il tedesco. «Non chieda a nessuno di venirmi dietro. E poi un momento, stanotte ci potrei anche ripensare, ma dovrebbe calarmi in casa la Befana e accendere lei il fuoco e apparecchiare la tavola per farmi cambiare idea!» E si tirò indietro. Parve, malgrado la sua mole, come scomparire in mezzo al gruppo. «Non voglio fare del male a nessuno», aveva detto, «ma nemmeno a me stesso e a chi mi vuol bene». Si erano levati da più parti dei gridi. Del Buono aveva fatto calma con la mano e si era dato di nuovo la parola. «Va bene, d'accordo, la fame è fame, ma vi lascio considerare se non sia il caso di sottoporsi a un ultimo sacrificio. Dico in particolare a te, Butori», aggiunse rivolgendosi al tedesco, «che sei vecchio del mestiere e sei un galantuomo. Riflettici davvero stanotte. Siamo più di prima nella misura del consentito. Questi soldi, pochi che siano, stanno per arrivare. E al punto in cui ci troviamo, arrendersi significherebbe un disastro, specie riguardo all'avvenire. D'ora in avanti gli imprenditori si sentirebbero in diritto di dettare loro le condizioni, sempre a loro piacimento». Poi si rivolse ad Olindo. «Vieni qua, Tinai. Tu sei entrato da poco nell'arte. Non devi credere di averci nemici». «Nessuno è nemico!» avevano gridato. E il decano, «a meno che non lo diventi lui con una brutta azione!» Olindo era avanzato di qualche passo verso Del Buono. Stava fra mezzo un gruppo da cui doveva sentirsi spalleggiato. Lo si capiva dal suo atteggiamento e dall'atteggiamento di coloro che gli stavano accanto. Tutti padri di famiglia, in definitiva, dalle facce dure, oneste, che la disperazione aveva reso torve, provocatrici, e che ora spontaneamente si erano portati vicino al tedesco, scoprendo in lui un alleato di prestigio. Olindo per primo se ne fece scudo. «Mi richiamo alle parole del tedesco. Non ci date di crumiri se domani si torna sul lavoro? E come vi si dovrebbe chiamare? Buone lane?» gli chiese il decano. «Gente che ha la responsabilità di una famiglia e non va dietro agli spiriti. Io ho cinque bocche da sfamare, sei con la mia. Non so più dove trovare due soldi per una fetta di pane», Olindo disse. E, terrio in viso, al solito, tutto ansia ora e tutto bile, gridò, «Io non ho né la ganza che mi mantiene, né la moglie bella o che mi vada lei a lavorare». Soltanto allora, mentre si scagliava nuovamente su Olindo, ci si accorse di Aminta, e non si fece in tempo a trattenerlo. Olindo tentò di fuggire, ma Aminta gli fu addosso con impeto. Prima ancora di colpirlo, lo rovesciò. Dopodiché si ebbe la mischia tra i sostenitori di Olindo da una parte, che arrestato Aminta sullo slancio lo stavano massacrando, e coloro che erano accorsi in suo aiuto. Inutilmente Giannotto e il tedesco e Duili e Leopoldo e il Santino dall'una parte e dall'altra si erano buttati in mezzo per dividerli. Gli animi erano talmente stravolti che anche loro, per difendersi, non avevano potuto fare a meno di colpire. Presto il tumulto aveva richiamato gente. Erano intervenuti dei soldati che sortivano di caserma per la libera uscita, con l'intenzione generosa di fare da paceri, e lo stesso erano stati trascinati nella rissa. Un meridionale aveva sguainato la baionetta, per fortuna ancora padrone di sé, se ne serviva di piatti e gridava «Ferventi! Che state facendo? Vi abbiamo sfamato!» Essi non c'era esortazione che bastasse a fermarli. Era la propria bile, la propria miseria, la propria fame che ciascuno abbatteva a pugni chiusi sulla faccia del compagno, e tutti, sia quelli che avevano spalleggiato Lindo, sia quelli che erano insorti in difesa di Aminta, senza più ricordarsi del pretesto che li aveva scatenati. Tutti intorno, quei conciatori e quei marmisti richiamati dalla Buriana, la più parte a braccia conserte, stavano a guardare. «Bello spettacolo che date!» commentavano. Le balie e le madri, sorprese nella loro passeggiata sul Lungarno, scappavano strillando e trascinandosi i ragazzini. L'omnibus aveva appoggiato sulla sinistra e i passeggeri, atterriti o allegri secondo i casi, sembravano godersi lo spettacolo dall'alto di un bel vedere. Intanto il maître dell'hotel Balestri aveva fatto chiudere il portone, spedito di carriera il suo secondo a chiamare il delegato. La scazzottata si era protratta 10 minuti, un quarto d'ora. E soltanto Del Buono, fattosi nel centro della mischia, era riuscita a sedarla. «Ci dobbiamo vergognare!» urlava, disperatamente aggiustandosi le lenti in cima al naso. «E voi altri di avere i calli alle mani, sciagurati!» L'autorità e il rispetto di cui godeva finirono nonostante tutto per richiamarli alla ragione. Si vide allora che Olindo era scomparso e che Aminta era rimasto per terra, col viso rigato di sangue in preda alle convulsioni. Ma prima che gli animi si fossero calmati e che la staffetta dell'albergo arrivasse a destinazione, dalla vicina caserma era accorso il picchetto di guardia al comando di un ufficiale. Con la sua sola presenza aveva fatto il vuoto nella piazza. Tuttavia non si era curato dei militari, ne aveva fermati un paio e insieme ad essi aveva acchiappato Del Buono e una decina d'altri muratori che non avevano creduto, non avevano fatto in tempo a scappare. Il delegato, giunto di lì a poco, li aveva poi ammanettati. Dei compagni di Metello, al cantiere di via 20 Settembre, c'era rimasto Leopoldo nella rete. Codesta sera, messi a letto i ragazzi, la sua giovane cognata non l'avrebbe visto rientrare. Metello era arrivato contemporaneamente all'ufficiale alla sua scorta. ma provenendo da Piazza della Signoria, con ancora addosso, se non il pensiero, il profumo della bella Idina. Era stato travolto dal fuggi-fuggi. Giannotto gli aveva gridato «Scappa, vieni!» e attraverso Ponte alle Grazie si erano fermati dall'altra parte del Lungarno. Annottava. Malgrado aguzzassero lo sguardo, non riuscivano a vedere cosa accadesse davanti ai cavalleggeri. Così, per non restare in trappola, ai due capi del ponte avevano ripreso a correre e raggiunto il quartiere del Pignone per parlare con quegli operai e discutere insieme la situazione. Trattandosi di Del Buono e della Camera del Lavoro, la cosa non riguardava più soltanto i muratori. Li avevano trovati alla Mutuo Soccorso, che giocavano a carte e preparavano i festoni per il ballo della domenica. «E ora?» gli chiese Ersilia. «Cosa pensate di fare?» «Qualcosa hanno di già fatto, per il resto se ne riparla domani». Quegli operai avevano telegrafato a Pescetti e mosso i capi socialisti che si trovavano in città. Poi si era saputo che Del Buono, Leopoldo e gli altri stavano per essere tradotti alle murate. Li accusano di rissa e cercano di fargli dire dei nomi. Quindi si era tenuta una riunione «Dov'è il partito?». Avevano parlato uno delle officine Galileo e uno delle vetrerie. Era stato scritto un manifesto che in quel momento si stampava. «Ora si vede se siamo una popolazione», avevano detto. Liberare Del Buono diventa una questione di principio e far togliere i sigilli alla Camera del Lavoro più che mai. Gli animi erano eccitati. Si diceva di voler andare in fondo, se necessario, fino allo sciopero generale. C'era una sigaraia, Metello la conosceva di vista, non era nemmeno una brutta figliola, doveva stare dalle parti di Ricorboli o del Bandino. Aveva gridato, su di noi ci potete contare. Della Galileo, della Pignone, delle officine meccaniche non si dubitava. Il vetraio aveva garantito per i suoi, e siccome tra i presenti c'era anche uno dei molini, gli era stato chiesto, e su voi altri? Costui era un uomo grande e grosso, una specie del tedesco, si era stretto nelle spalle. Boh, speriamo, io direi di sì, ma bisognerà sentire, non posso mica essere nel cervello degli altri. Era intervenuto un fornaio di notte. Se voi ci state, a noi ci resta più facile. Lo capisco, ma è bene anche il contrario, aveva risposto quello dei molini. Questa era la situazione. Del Buono, Leopoldo e una decina d'altri in carbonaia, forse di già alle murate. Aminta all'ospedale e la Camera del Lavoro piantonata. E in quanto a loro muratori, ormai se la dovevano vedere da soli, come e più di prima. Domattina una commissione andrà dal prefetto o dal questore, egli concluse. Chissà se gli riceverà. Parleranno per telefono con Roma e poi, se in serata non saranno riusciti a nulla, è probabile che decidano lo sciopero generale. Noi per il momento restiamo allo stesso punto. Ci hanno detto non vi arrenderete mica proprio ora dopo lo scombuglio che avete creato. E senza che ce lo dessero a divedere, avevano l'aria di guardarci risentiti. Gli volevi dar torto? Scostò il piatto dove aveva mangiato. Mise le braccia sul tavolo e appoggiò il mento sulle mani. Ella tolse il piatto e il bicchiere. Ora, non ti buttare la croce addosso. Andò e tornò dalla tavola all'acquaio. Ma le vostre intenzioni quali sono? Egli le spiegò ciò che avevano deciso, poi disse, tutto per via d'Olindo, non prendertela con lui. Ha avuto meno tatto del tedesco, ma anche il tedesco e gli altri, non hanno manifestato la sua stessa intenzione? E poi, o non è stata Minta a saltargli addosso per primo? Tu lo difendi, pensa alla famiglia che ha sulle spalle. Anche a Minta ha famiglia, tutti l'abbiamo. Io non ho una famiglia? Ricordatelo più spesso, ella esclamò. Malgrado se stessa, ciò che restava in lei della sua angoscia di tradita, improvvisamente le aveva fatto groppo al cuore e se ne pentì. «Scusami, volevo dire un'altra cosa». E di nuovo si odiò. «Insomma», concluse, «ho sbagliato». Ma egli era troppo preso dai propri più recenti pensieri per intuire l'origine delle sue parole. Si alzò, rimise a posto la sedia con ira. La sedia cadde e lui la lasciò dove era caduta. Lo so, non sei tu che hai sbagliato, sono io, siamo tutti noi, non ci si doveva mettere in questo ginepraio, Olinda ha ragione, il tedesco ha ragione, ci si deve contentare di quello che Dio ci manda, cuor contento e sacca al collo, dillo e festa finita, così conoscerò di preciso anche la tua delle opinioni. Entrò in camera, si cavò il berretto e lo attaccò al pomo del letto, si tolse le scarpe e i pantaloni e si distese, ella lo aveva seguito portando il lume. Ora ti spiego cosa volevo dire. Olindo e gli altri che sono d'accordo con lui hanno torto, fanno male, ma si possono anche capire. Non si può pretendere che tutti abbiano idee giuste quando si vedono soffrire delle creature. Basta, egli disse, non mi ci far pensare. Si voltò su un fianco e affondò il viso nel cuscino. Certe volte ci si pente d'essere nati. Dai, ella disse, e cercò di sorridere, di mettere dell'allegria nella propria voce. Non si nasce da sé, ci fanno nascere. Poi gli disse, togliti questa camicia, zuppa di sudore. Al di là della finestra spalancata c'era il silenzio della notte. Dalla fiaschetteria sull'angolo proveniva di tanto in tanto qualche voce. Il marito della Celeste e il bacalaro si salutavano dopo l'ultima partita. Suonarono e rintoccarono le due. «Mi dovrei alzare alle 4», egli disse. «Ma se mi addormento chi mi sveglia?» «È stata una giornata». «Ti sveglio io», ella disse. «Non ti preoccupare». Egli aveva chiuso gli occhi ed ella lo crede assopito. Gli sfilò i calzini e lo coperse col lenzuolo. Prese il lume e lo tenne alto su di lui. Rimase un attimo a guardarlo che dormiva sul fianco, la guancia schiacciata contro il cuscino. E se ancora vi era del risentimento dentro di lei, il timore aveva finito per sopraffarlo. Poco prima egli le aveva detto che lui, Giannotto e tutti quelli che erano d'accordo per continuare nello sciopero, rimasti senza il consiglio di Del Buono e con la situazione che si era venuta a creare, non sapendo che far di meglio, avevano deciso di trovarsi prima di giorno in prossimità dei cantieri per affrontare coloro che venissero con l'intenzione di riprendere il lavoro. «Bisogna persuaderli, con le buone, si intende», egli aveva detto, ma anche aveva detto «a tutti i costi». E a proposito di Olindo, con Olindo me la vedo io di persona. Lui sui ponti non ci sale di sicuro. Magari lo leggo mano e piedi e lo tengo mezza giornata in un fossato. Come li facevo da ragazzi, quando si giocava a Garibaldi e i papalini. Ella tornò in cucina e si mise ai suoi fiori. Doveva riunire in mazzetti quei papaveri di più colori che erano tanto piaciuti alla bellidina. Quando suonarono le 4, Metello era già desto. «Non m'è riuscito di chiudere occhio», le disse. «Non ho fatto che pensare, è sempre a vuoto». Uscita Ersilia, egli aveva cercato il sonno, fermandosi su un proposito, a costo di cazzottarli uno per uno e mandarli a far compagnia ad Aminta. Ma non c'era della spavalderia nel suo animo, piuttosto della tristezza, o meglio dei sentimenti confusi in cui la vergogna aveva lo stesso peso del risentimento. Un'inquietudine, che non aveva mai conosciuto, continuava a tenerlo desto. Egli aveva sì sperimentato la delusione, la paura, e nella prima età anche il terrore, come la notte che i carabinieri avevano arrestato Babbo Eugenio e quando batté il terremoto. Era domenica e stavano desinando, ed egli aveva veduto oscillare la lampada e la trave maestra che si muoveva sopra la sua testa. La volta, infine, che si era tuffato nella gora per salvare Olindo e lui gli si era attaccata al collo. Sarebbe andata a fondo se invece della gora fosse stato un fiume. Erano riemersi un metro più avanti dove si toccava. Tutto questo apparteneva all'infanzia. Agli anni coi calzoni corti sotto il ginocchio, ne aveva persi il ricordo. Era un ragazzo e viveva in campagna. Appena buio ogni fruscio e ogni ombra se lo venivano a pigliare. Non occorrevano circostanze eccezionali per mettergli terrore. Nondimeno era stato un modo di crescere dentro il bozzolo, allenati contro l'insidia, lui e Olindo, come in uno stesso guscio. Quindi, le prime volte che intimamente avevano sorriso allorché il prete gli illustrava le pene dell'inferno e mamma Isolina gli minacciava la presenza dei morti a piè del letto, erano usciti dal nido. Una notte senza luna, mentre Olindo e tutti dormivano, di proposito egli si era avventurato solo fuori casa. Aveva preso la scorciatoia dove era stato trovato il guardia appeso al terzo moro ed era arrivato fin sulla siepe. Nemmeno i fuochi fatui gli avevano fatto impressione costeggiando il cimitero. Si era indugiato a stanare i granchi di sotto i massi e al suo ritorno, con le prime luci, tutti i tinai erano in piedi che lo cercavano. Sorpreso di queste lontane immagini riaffiorate alla sua mente, cosa vuol dire? Si chiese. Beh, ero diventato grande avanti il tempo, non avevo più paura. E istintivamente, fino da allora, aveva capito che soltanto dai vivi poteva venirgli l'insidia. Li aveva affrontati a viso aperto e si era ritrovato per terra, ruzzoloni. Questo era accaduto nei due momenti decisivi della sua vita, il giorno del suo arrivo a Firenze, carico di sonno, di stanchezza e di fame com'era, aveva dovuto affrontare l'ostilità di quei facchini al mercato, ma poi Betto se l'era caricato sulle spalle, gli aveva insegnato a leggere e a scrivere, a darsi un mestiere che fosse un mestiere. E la sera di maggio, che si era trovato ristretto nel camerone delle murate insieme a Giannotto, a Ghigo Monzani, a Fioravanti il tornitore, e gli sembrava di non aver lasciato altro che la libertà al di là di quelle mura, allora si era alzata la voce di Ersilia e subito egli si era detto: esco e la sposo. È vero, solo che tu conservi un minimo di volontà, trovi sempre una mano che ti tira su se sei abbattuto. Trovi l'amicizia e puoi trovare anche l'amore. E non devi mai né riconoscenza né devozione a nessuno. Aiutandoti, è se stessi che aiutano, i loro scoraggiamenti, le loro paure, i loro terrori. Gli devi amicizia ed amore, quanto puoi, non di più, altrimenti sarebbe ipocrisia, esagerazione. Siamo tanti girotondi, senza parere ci teniamo per mano. Se esci dal cerchio, allora sì, sei perduto. Il pane del povero è duro, e non è giusto dire che dove c'è poca roba c'è poco pensiero. Al contrario, stare a questo mondo è una fatica, soprattutto saperci stare. Non ti puoi permettere una distrazione che subito ti casca la casa in capo, si era detto. La domanda che Ersilia non gli aveva fatto, gliel'aveva posta Giannotto, appena al sicuro dietro Ponte alle Grazie. Del buono aveva subodorato qualcosa, perciò ti aveva mandato a chiamare. Tu dov'eri? Poteva rispondergli: ero con la Ganzi in Terzollina? Fossero stati soli, forse, ma c'erano presenti Lippi, Friani, il piccolo Renzoni, altri ancora, e tutti con gli orecchi dritti, la lingua fuori e le bestemmie che uscivano da quei petti affannati come Ave Marie. Aveva detto: mi ero persa a sentire le prove della banda presidiaria, e si era sentita avvampare. Più l'aveva scottato la luce d'omertà intravista nello sguardo di Giannotto. In codeste fiamme la bella Edina aveva finito di incenerire. Ora, malgrado tenesse gli occhi al soffitto, come certe altre notti, non poi tanto lontane, Metello non era ad Ida che pensava. Essa non aveva mai impegnato il suo cuore, così gli ultimi avvenimenti ne l'avevano esiliata. Tanto poco aveva dunque contato con questa sua avventura. Meno delle fidanzatine succedutesi alla sua relazione con Viola? Meno delle amiche occasionali di Lungocelsa e del Pendino? Meno, meno. Né egli provava rimorso nei confronti di Ersilia. Seppure fosse la prima volta che la tradiva, i suoi sentimenti non erano mai stati in gioco. Ersilia era al centro dei suoi affetti, nell'unità della famiglia che nessuna avventura poteva incrinare. Non era su questo che ruotavano i suoi pensieri. Le sue idee in proposito erano semplici e chiare, comode ma lineari. Se ne sentiva tutelato. Le renderò i conti, c'è tempo, si disse. La sua inquietudine riguardava unicamente quanto era accaduto nel pomeriggio, e peggio, il fallimento dello sciopero che li minacciava. Non era anche colpa sua? La responsabilità, diciamo, ricadeva pur sempre su Olindo e su coloro che lo avevano spalleggiato, e su di lui, sì, ma nella misura in cui egli non aveva saputo vigilare le mosse e gli umori del fratello. Dopotutto non sono la sua balia. Giannotto gli aveva ricordato che se lui fosse stato presente in piazza Cavalleggeri alle 7, come era convenuto, invece di perdersi ad ascoltare le prove della banda presidiaria, Olindo non avrebbe minacciato di mettersi alla testa dei Crumiri. Te ti ascolta, ti teme. Con un nulla gli avresti fatto cambiar parere e molte cose si sarebbero evitate. Il tedesco è un uomo ragionevole, non sarebbe mai arrivato a vestirsi da provocatore. È stato Olindo che ha fatto precipitare la situazione. Sicché, tutto per colpa mia? E vabbè che ho le spalle larghe, si ripeteva. Non di meno, la situazione restava quella che era. Del buono tolto dalla circolazione e i sigilli alla Camera del Lavoro come nel 98, ci risiamo. Gli anni passano e il fucile l'hanno sempre loro. Guai a non far muro, gli basta una crepa per buttare all'aria quel poco che si è riusciti a costruire. E questa volta la miccia l'aveva accesa Olindo, sbagliando, uscendo di ragione. O non l'aveva accesa Minta, piuttosto. Non ci poteva pensare, ed era l'unica cosa a cui doveva pensare. Si assopì, e qualche minuto prima che entrasse Ersilia, si era svegliato di soprassalto. C'era un gran silenzio, e la luna batteva sul davanzale. Dall'altra stanza veniva il filo di luce del lume a petrolio e il fruscio che faceva Ersilia con i suoi fiori. D'un tratto udì pesticciare al piano di sopra, si sorprese che a questo mondo esistessero ancora le Sosa e suo marito. Lavandosi sotto l'acquaio si disse: «Ma quando è stato? Mi sembra 1000 anni fa». Chinò la testa per voltarsi a guardare il Silvia che gli dava le spalle, intenta a riordinare sul tavolo il suo lavoro. La vedeva piccina, perché doveva socchiudere gli occhi per via del sapone, e le sorrise. Di lì a poco era vicino alla porta e la salutava. Ella aperse la mano dove teneva 3 monete da 2 soldi e 2 centesimini. «È tutta la cassa, ti può servire?» «Ma se è tutta la cassa, stamani consegno quei fiori alla Rovini, e i bottegai continueranno ad aspettare, non li calmerei di certo con meno di 1 lira». Egli cavò dal taschino del panciotto un mozzicone di sigaro. Sembrò fare una considerazione. 4 soldi mi bastano per mezzo toscano. M'ero serbato questa cicca, ora la posso anche fumare. Con gli altri ti c'entro una mescita». Erano fermi sulla soglia. Egli le dette un bacio sulla guancia, e inaspettatamente ella si sentì arrossire. Egli disse: «Come va il bambino? Vedi dove ho la testa, te lo chiedo soltanto ora. Sta una meraviglia. Quando l'ho lasciato non se n'è nemmeno accorto». «Ciao, ciao», ella disse. E mentre lui scendeva le scale e lo vedeva di spalle, «Metello!» lo richiamò. «Non fare delle sciocchezze. Ne hai già fatta abbastanza», gli avrebbe voluto dire. Fuori era ancora scuro, ma una notte lunare estiva, appena ventilata. Presto sarebbe sorto il nuovo giorno, l'ultimo dello sciopero. Egli teneva l'indice nel taschino dove aveva il denaro offertogli dalla moglie. I suoi passi risuonavano sulla pietra. Strofinò lo zolfino a un muro e accese il mozzicone di sigaro. Era sull'angolo di San Piero. Vinse la tentazione di attraversare la strada per bere una mescita al banco di Nocellino aperto tutta la notte, e dove c'erano degli avventori e una donna fra costoro, in cappella, intolettata, che gridava: «Rinnoca! Questo non è passito!» Girò attorno al duomo. C'erano quei fiaccherai che giocavano a morra, e incrociò un ciccaiolo da cui riceve il saluto. «Buona fortuna!» egli rispose. «Non fossero passati gli altri prima di me!» Ora aveva imboccato via dei servi lunga e deserta, a cui di lontano facevano quinta Ferdinando I a cavallo e alle sue spalle il portico dell'Annunziata. Nel cielo, con la luna piena, c'era come il presentimento dell'alba, un velo chiaro e impercettibile sopra lo stellato. Egli camminava nel mezzo della strada e più che fumare il dito di sigaro lo masticava. Non sarebbero venuti in molti all'appuntamento, pensava. La carica dei soldati li aveva dispersi e poi non c'era stato il tempo di avvertire. Ma i picchetti li avrebbero fatti ugualmente, quanti fossero. Per questo si volevano trovare per tempo in prossimità dei cantieri, per bloccarli uno per uno prima che entrassero nella sfera di Crispi e di Nardini. Chissà se l'ingegnere si sarebbe fatto vivo. Dopo, via via che arriverebbero quelli che condividevano l'idea di continuare nello sciopero, si sarebbe accresciuta l'opera di persuasione e di intimidazione, se necessario. A un bambino si apre la bocca con la forza per fargli prendere la medicina. È per il suo bene. Raggiunta piazza dell'Annunziata, si fermò alla fontanella. E bevendo, per acqua che fosse, e ancorché a digiuno, scoperse d'avere una gran sete. Sotto il loggiato degli innocenti, alla porta dell'orfanotrofio, dove c'era la ruota, gli parve di intravedere un'ombra che si appiattiva. La luna illuminava fino all'altezza dei plinti, più dentro non si distingueva. Egli preferì allungare il passo e voltare la cantonata. D'un tratto, in quel silenzio, dalla piazza che si era lasciata alle spalle, dove lo scroscio della fontanella non aveva eco, risuonò un tacchettio veloce. Egli si girò e vide una figura di donna correre come inseguita sotto la luna. Un attimo. Subito ricomparve dietro via dei fibbiai, lanciando un grido. «Addio, Mimmino!» Era una voce giovane, non rotta dal pianto. Sembrò, in quel silenzio, sotto quella luce, in quell'ora, stranamente felice. Ma non era un episodio che potesse turbare il suo spirito altrimenti affaticato. Una sciagurata in più, egli pensò, e riprese la sua strada. A non aver nulla da fare, si disse, ce ne sarebbero la notte di cose da vedere. Alessandro Benvenuti ha letto Metello di Vasco Pratolini,